Siamo in collegamento con Giorgia Boldrini, direttrice di Mente Locale Visioni sul Territorio. Buongiorno Giorgia. Buongiorno. Allora, partiamo un po' dal principio. Quali sono le novità di questa settima edizione? Allora, la prima novità non è bellissima, è che il festival per la prima volta è soltanto online, purtroppo. Ma la seconda novità è bella ed è che, poiché siamo solo online, ci siamo permessi di selezionare più film del solito. Quindi quest'anno abbiamo ben 22 film in concorso da tutto il mondo, sempre sul nostro tema, che è il racconto del territorio attraverso l'audiovisivo, e due regioni ospiti, che di solito sono ospiti in presenza e rappresentate questa volta solo online, che sono la Sardegna e la Calabria. Ogni anno scegliete uno sguardo su un particolare territorio del mondo. Quest'anno qual è stato scelto? A parte le due regioni ospiti, non è stata una scelta a prioristica, è nata dalla selezione. Tra i quasi 4.000 film che ci sono arrivati per la selezione, c'era una grande quantità e qualità di film che raccontano l'Asia, quindi in maniera, diciamo, spontanea, condivisa tra tutto il team di selezione che ha lavorato online giorno e notte per selezionare tra questi 4.000 lavori, abbiamo ben 9 lavori su 22 che raccontano il continente asiatico in tante sfaccettature diverse, dall'allevamento dei cervi e la pratica barbarica del taglio delle corna dei cervi nei Monti Altai in Russia, con un documentario molto bello e molto crudo di una regista molto, molto interessante, a lo sguardo su una città a 30 anni da un terremoto, distrutta da un terremoto, che dopo 30 anni viene rivista dagli occhi di una giovane regista in Armenia che torna alla sua città. Quindi tanti sguardi differenti, dalla Cina in trasformazione, quindi quartieri che si gentrificano, si distruggono le vecchie case per far spazio a quartieri residenziali. Lo sguardo è sempre sul territorio, appunto 9 su 22 sono dell'Asia, ma abbiamo anche tanti sguardi sull'Italia. Sull'Italia abbiamo due anteprime assolute, una di un film che racconta la Sicilia e si chiama Through the Lens ed è in programma il primo giorno, mercoledì 11, cioè domani. E racconta la Sicilia e le isole della Sicilia attraverso le lenticchie, quindi molto bello raccontare un territorio attraverso la storia di un prodotto tipico e le testimonianze degli abitanti, ma anche un lavoro bolognese in anteprima assoluta di Enrico Poli, I giorni nel tempo, sulla Bologna al tempo del lockdown, con una città deserta raccontata dalla voce fuori campo di Nicola Borghesi, in cui queste architetture diventano esse stesse parlanti e conducono una narrazione. Quindi insomma sguardi molto compositi, abbiamo anche due film di animazione, lavori anche di fiction, perché abbiamo varie sezioni, quindi varie sezioni, vari premi, tanti partner. Crediamo di aver fatto un buon bouquet, che si potrà vedere online sulla piattaforma docacasa.it, che è una bella piattaforma che la DER, l'Associazione dei Documentaristi Emilia-Romagna, ha proprio creato durante il periodo del lockdown di marzo. Ci saranno anche degli eventi collaterali, sempre in streaming, che non riguarderanno proprio la proiezione di film? Abbiamo pensato a tre appuntamenti che si svolgeranno. Il primo è venerdì. Venerdì 13 è il giorno dedicato all'architettura. Abbiamo un po' delle giornate tematiche quest'anno. Il primo giorno è domani, mercoledì, sono tre documentari di tre registe donne. E giovedì abbiamo una giornata dedicata ai corti, sia di fiction, sia documentari, sia di animazione. Venerdì abbiamo deciso di dedicare una giornata al tema dell'architettura, che è un tema a noi molto caro, con due lavori in concorso più un lavoro fuori concorso della regione Sardegna che si chiama Fontaneris ed è un viaggio attraverso le fontane della Sardegna. La Sardegna è una regione a noi molto cara che abbiamo esplorato anche come autori e ne dialogheremo con gli autori e il protagonista di Fontaneris e con Nevina Satta di Sardegna Film Commission. Quindi primo appuntamento venerdì alle 18.30 sul tema del racconto del territorio della Sardegna e dell'architettura. Sabato alle 18.30 avremo un momento di networking con tutti gli autori in concorso che potranno collegarsi con noi. È un momento per fare festa, per conoscersi. Il nostro festival è un festival molto intimo che si è sempre basato tanto sulla relazione. Il fatto di non poterlo fare in presenza è una grande sofferenza e quindi l'incontro di sabato alle 18.30 serve un po' a questo, a conoscersi in maniera informale e a presentarsi. Domenica alle 18:30 la premiazione. Noi eravamo abituati a delle premiazioni conviviali con i prodotti del territorio, dei nostri partner in agriturismi tra le colline di Modena e Bologna. Quest'anno purtroppo siamo online, ma speriamo domenica alle 18:30 di riuscire comunque a restituire un po' del calore, che è quello che caratterizza il nostro festival, nell'evento online, sempre sulla piattaforma Zoom. L'ultima cosa che dico è che il 16, cioè lunedì, si potranno vedere in replica i film vincitori per chi se li sarà persi nelle giornate di programmazione.